Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Tadrarite, Pipistrelli, scritto e diretto da Luana Rondinelli, con Claudia Guzmano, Anna Clara Giampino, Luana Rondinelli. Dalle che la faccio piano? Se non ce la faccio assurda, dici poi che cosa? No, no, ce l'ho. No, a me non mi senti, dici poi che cosa tu. C'ho di quello. Senti, devi essere un poco più addolorata. Ti devi mettere la faccia d'occasione. Ma sei andato a caso. Grazie. Moise. Adesso è che i vicini se ne sono andati. Senti, ma io ero abbastanza addolorata. Ma? Come no? Mi si levava un burugiucco. Ma sta porta? Ancora tutto sto tempo aperta va a stare? Fermati, dove ne vai? Non lo sai che la porta deve restare aperta tutta la notte e la luce aggiumata? Per permettere all'anima del defunto di trovare facilmente la via dell'uscita? Allora aspetta che aggiungo pure chissà, metti chissà avesse a perdere casa a casa l'anima del defunto. Ah, cominciamo, busta santa nottata, e diciamo sul rosario di finte preghiere per cortesia. Cominciamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ma tu sei la benedetta. Lo sapiti chi di moito? Magari mi passi pure più peggio. Sarà la luce divina. Chissà se arriva in paradiso, puro Signore ci vira poi la stafora. Però pur ricordati come una divittia mungambagna che ha 500 tuo papà. Io ci dicia, vai che me lo curri, curri! Pure figurigna si giravano quando passavamo, che risate! E io mi scantava, cuscevo troppo! A Eggio chi succede a dare? Macchine? E motora? Roimere e ficcare! Che disse? Ficcare, ti disse! Anzi, a Eggio ci piacevano solo le macchine, a Giovanni invece ci piacevano solo le femmine. Ah, i primi tempi! Tutto rose e fiori, pare. I carizze, i sciute, i complimenti, parano pazzi. Parano che ti scegliero tra un sacco di femmine. Sei la prescelta. Se tornassi indietro. Se tornassi indietro, io non ci riuscissi più, sì. Non ci calassi più a testa. Stavolta voce ci volesse esare perché ci sono quattro mura, sì. Ma la porta com'è? La porta è aperta e le parole arrivano all'orecchio di tutti, perché ora io sono stanca. I rumori, sì. Ma mi spiegate perché il dolore sento ancora. Ma ormai sono tempi che furono. Non vuoi vociare più piano? Metti che ti senti qualcheduno. Metti che là ci sapessero tutte cose. Metti che i tuoi figli venissero a sapere. Le cose si dovevano fare prima. Ormai giù Moise si puitava tutte cose in a bara. Lascia stare i morti che dormono. No, e invece voglio svegliare. E ce ne voglio dire qualche cosa st'anima prima che ne esce sta casa. E io ti l'avevo ritto. La saluire, non è masculo pittia. Tu invece l'amore, l'amore. Sì. L'amore ne pigliavo per fissa tutte e tre. Tu vedova con due figli di mantenere. Tu vedova con due figli ora pure sta casa popolare di riscattare. Io vedova? Divorziata? Vedova! Questa figlia nica in capapanza. Ma di come chiamo chissà? Di suo padre perché che è ancora vivo. Morto è, ti sbagli, mortissimo. Anzi, non è mai esistito. Mio marito quello vero è quello con cui sto adesso. Lui sì che è un uomo. Non mi ha fatto mai mancare niente, mi ha sempre comprata tutto. Certo, i primi tempi c'erano più soldi, facevo la gran signora, poi la crisi. Ma mi comprava tutto, vestiti, mobili dell'Ottocento, una casa a Roma. Che non hai più? Zitto te. Meschino, se l'è venduta per pagare i debiti che ci fici fare, su mangiavo vivo. Loro, un pignato. Ancora parla. E i soldi non ci bastavano più? Zittitele. Se si scopre che non c'ho più niente, che figura ci faccio con la gente? Mattia Cuturici di contare minchiate. Silenzio. Chicca, pure i giovi l'orecchie. E si sentiva tutte cose? Ma sei morto! E si arrivisce! La fortuna che hai, o può essere che chi insomma arrivisci, quindi mi fai un favore, ti zitte! Oh! Ma non finisci più! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Certo, però, che pesante vero era più vestito? Un vestito ci stava un po' uscito. Pesante, vero? Magari con sforzo che fici per tenerlo, o petto dolore mi fa. Comunque, meno male che ci pettinai capigge. A gente che vi a dire? O petto dolore mi fa. Ma voi ricordate quando mi operai? Certo. Certo che non ricordiamo. Ecco. La notte sarete rao. E ci fece trovare tutto il cucinato pronto, anche se non mi potevo muovere. Trasio, mangiavo, veniamo a dormire. Ma la bestia non ci interessava che avesse dolore uno petto e ci diceva che in me. Lascia stare. Non mi posso muovere, che in me, tu giuro, mi fa male a tutte le banne. Ma poi nascivo Tony e mi scordavo tutte cose. Giovanni, sogno che ne rilividi. Si cristiani si nadunano, chi ci ha contato? Ma poi nascì Giuseppe e mi scordava tutte cose, che in me, tu giuro. Ah, hai punto ancora petto, mi posso ancora per i cosci, me ne esce sangue. Ma poi nascì Maria Rosa e mi scordava tutte cose. Ma poi nascì Giulia e mi scordava tutte cose. E poi nascì Giacomino. E io mi scordava tutte cose. Ecco qua. E sto guaio, sto errore che fece, sto sbaglio, lei sempre avanza le occhie. E poi si lamenta sempre, è nervosa. O sta un attimo ferma, ci volessero le catene. Ma dico pigliavo chissà. Di sua pace pigliavo. Tutta sua pace. Meno male che c'erano sti figli miei. Mi salvarono l'esistenza ancora prima di nascere. Perché quando io stavo qui giù, con mio marito, io non vivevo più. Mi tagliavo lo specchio e mi veniva deformata. L'occhi nivori, sempre più nivori, perché poi ci sei talmente abituato a sopportare sta femmina sempre in casa. E la gente si domandava, ma come chissà? Sempre insieme a lui, a qualsiasi ora. Questo ma è chissà. A stare insieme a lei, da sera a mattina, a mangiare pizza, a passare cassaro, senza rimia, senza vitello. Ma come chissà? Amica mia, va bene? Amica tua. Amica sua, e boh. Amica mia. La feci trasferì io in casa mia. E io ci la via porta. La colpa è mia. Era diventata l'ospite d'onore. Signora, si accomodi. E mi tagliava con il sguardo pietoso per una che ci fa pena. Avevo una vita che fingevo. Ma che dici? Ma mi sta dicendo, Maria? Ma mi sta dicendo, Maria? Ma che dico? Ma perché mi avevo squitato? Stavo quella mattina io mi ho beccato. What? bella giornata. Che cavolo, chi fai tu ripisci? E tu ha tuppato naso. Ma quanta bella gente oggi. Ma chi già ci tirassi i capitoli? Non finiscila. Signora Rosa, tutto a posto? Sì, sì, tutto bene, grazie. E suo marito l'ho visto l'altro giorno con la sua amica Carmela, ma sono affiatatissimi. Lo so, è una sorella. Mi tiene sotto controllo il marito. Ho chiesto un supporto più. Zitto, ti fai finta di niente, sorridi. Signora Frank, anche lei è la piccola. Bene, grazie, mangia, studia, dorme, nemmeno la sento. Una meraviglia. Ma sento una cosa da domanda, chissà. Ma servire, non vire come un'Italia, ci interessa. Signore belle, dai che belli pezzi che sono roci roci. No, no, niente pezzi che... A mio marito ci piacciono solo l'arance. Io ci stai attenta a queste cose. Sì. L'arancia ammogliata in ovino. Signora Rosa! Che dici, ti devo raccattare col più bello bambaloci? Ah, ma perché? Scusi, quanto vengono al chilo? Quanto bello, ok? Fisci, fisci, fisso! Signora Rosa, non ne va così correndo sulla sola. Sto andando a casa. Hai un sacco di ciabatte di fare? Chi sono tutto davanti che ci ruba suo marito, Ma marito, mio marito, pezzi che fa poco! La signora Maria, buongiorno! Salve, buongiorno, tutto a posto? Grazie! E suo marito come sta? Non mi vedo mai assieme in giro, mentre con lei che fa? L'ho lasciata a casa a vedere quanto si ama, perché siccome mi sono persa la puntata, almeno quando torno a casa me la punta! Ma guarda che bellissima persona! Una sabbia! Da sua nonna, ce l'ha come una figlia. Mamma mia, che gran silhouette, che gran camminata. Ma la cosa naturale oppure se l'hai studiata? Merito di immaginatura, io nasci imparata. Guardate, come la è pesce in re. Non è che facciamo una salve. Buonasera. Grazie. La fiora di Nacco. Mia mia, la sta per stare. Arrivederci. E tu sono fissa. Io ho detto male, mi dobbiamo fissa. Arrivederci, grazie. E vanicila. E ancora. Siamo un indagato! Ricotta, ricotta Gaura! Tanti che hai saluti! Allo sia! Mi saluti suo marito! Presenterà un bacio alla picciriggia! Sarà fatto! Uomo a fare finta! E dicemolo sto rosario! Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ti puita sta testa con sto rosario. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, gira, vota e fisria, ricevo sempre le stesse cose, madre mia. Ma perché io capì a fare? Ecco, parla. Parla. Tanto le cose in casa mia succedono. Tra quattro mura. Ma perché forse tu, che abitavi in faccia mia, t'ha azzardato mai una volta a tu pugliare la porta e dirmi qualche cosa? Tutti surdi erano! Ma io che potevo fare? I vicini che sentiano, i picciriggi che chiangiano, chi giù era bravo solo a bruciare e tu solo a zittete. Ognuno in casa tua mi innaffa a scappare, successe l'inferno. Ubriaco frari, ci trovava pasta pronta in tavola e facia come un fogge. La pasta pronta. Ma che funziona a tappo? Uno solo ci tocca la pasta è pronta. E io hai ancora segni sulla coscia di quando pigliavo portacenere di vigio, sbattivo in terra e una sghidda mi si infilava una carne. Era meglio che murava in testa mia sto portacenere. No. Picchi a dare tillo un testa a tia davanti a tutti. A chi giù ci avessero rato i carceri domiciliari? E poi come faceva ad andarla a prendere l'amica? Ma come non ci vergognavamo? Ma come tiravamo sta coita? Oscuro con mogli a tutti i cosi. Già puzza l'alcol. Ci la viano cervello. Ne capigge, una pelle, una lingua. Io, che era stegna. L'amica. L'amica riletto. Suonavano, io ci rapia la porta. E quando mi vedi davanti alla mia, mi venivo a ritagliare i miei cannarini. E i miei figli. I miei figli la chiamavano zia. Zia Lina. Ci fece sempre regali. come mestiere che faceva un stipendio fisso via. E pronto a tavola, la serva ha cucinato per tutti. I buccuna mari che mi avvia aiutare a pranzo e a cena. E Igio Giria. Igia mi tagliava e Giria. Tanto che quando abbiamo avuto giù mano per tagliare pane, piglia macchianamo un fuoco, ma Igia no! Non ne avessi toccato mai, manco con niente. Perché io pensavo che pure Igia era una vittima. Che San Mia di notte mi tirava i capigi o mi attuppava bucca perché arraggiava come una scecca con dolore. Ah, Igia, come giattava? Che San Mia mi ammazzava all'ignate perché tornava ogni notte mia co fraricio. Ah, Igia, come giattava? Io pensavo che pure Igia ci faceva male. Che su te in sola un facevano l'amore. Che già cattiveria, già tinturia, ricane arraggiato, lo usava per tutti lui, perché colava a dire. Colava a dire che a moglieri ci hanno a toccare l'ignate e all'amante di carezze. O che a moglieri a Rominica va a cucinare e l'amante sa va a dire a fare a passiata. Che a bocca cusuta. Senza mai tagliare filo fino alla fine. E senza mai rabbiarmi gli occhi. Con le orecchie attuppate fino a farmi scoppiare il cuore e non sentire più niente. O passato è passato. Ma se tornassi indietro. Ah, se tornassi indietro. Io te l'ho chiarito. La saluiro, non è masculopittia, tu invece l'amore, l'amore. Sì. Amore, amore, non è proprio di cicere. Ma che ti aspettavi di uno che era chiumiaco a mattina da sera? Di uno che travagliava ognuno sì e sei no? Di uno che sognava di fare il pugile? Pugile! Ma che vita facisti, vo'. Tu, per esempio? Dopo che ti maritaste, quanto voto avresti, Erice? Ah, solo in fotografia, con sfondo di fornelli e pignata inox 1810. E tu? Una bella cassariata, un giro a lungomare, niente. Come scura sera che una mattina. E a Natale? Finiamo sempre prima di mezzanotte, manco tempo di stappare spumante. 7 ore in un parrucchiere e poi manco una fetta di panettone. La buonanima aveva fretta di andare a letto, trovava scusa e si cudava a tutte. Tutti fora, così! Finero, Natale, Capuranno, Epifania, Cisè. E dopo Cisè! Ole, ole. Ho fatto bene io. A mio passato mio non mi appartiene più. Avete visto più fotoriggio? No. Avete visto più cose che ci appaitenno? No. A mia manco lo dovete nominare. Chissà dove ci brillano l'occhio astura, chissà quali femmine io a giovenare. Lontano da me deve stare, da me e da mia figlia. Io non la conosco quella persona, e se la vedo per strada, per me è invisibile. E se mi parlo, mi rizza le canne. Aveva ragione mia madre. La saluiro, non è masculopittia, io l'amore, l'amore, te capiglia di chissà. Mi... pariamo fatti l'uno per l'altro, ci riciano sciamate, ma io voglio a chisso, chisso sì che mascolo, beggio, foite. Ah, mamma ti l'aveva detto, che di Giovanni mi voleva manca broro. Pure a tia ti l'aveva detto di Giovanni. Sì, ora magari l'unico che ci avagliava era Igio, la buonanima. Ma è così, la buonanima ci teneva l'apparenza, Don Carmelo era rispettato. Ma chi mia, ma ci carica cannileggia? Veremo quel più sciunzo? Chigio, mio, Siamo state ingannate. Mi ricordo, ogni gnoino a travagliare, mi viria a pigliare calambretta. Appena uviria di lontano mi sentì a scoppiare il cuore. Ero felice. Mi abbracciava forte, forte. Ma ora... ho passato meo. Io ci sputo lì sopra. Sputaci. ci sputoli sopra. Sputaci. Schifio. Picchisso con moglio tutte cose. Che umiliazione. Ammuccia. I lividi. Ammuccia. O dolore. Ammuccia e vai avanti. La tua finzione è ancora peggio di quelli che fanno finta di crederti. Ma quale finzione è finzione? Sì, quale finzione. Io dico la verità, è questa la mia verità, e la gente vede quello che vuole vedere. Io mi sono tirata su con la forza e senza l'aiuto di nessuno, e mi sono giurata che nessun uomo, nessun mascolo, mi avessi più toccata con Nirito. E che l'amore doveva essere una bella casa, un modello 740, un conto in banca. L'amore, e qui ci credi più? Ah, io ormai sono allergica ai maschi. Vedova, la condizione ideale, io tutta per i miei figli sono. Tutta per i miei figli. Ma... E casemo? Oh, sai che ti volevo dire? La giorno Toni portava bicicletta solo. Ma che dice? Avevi a birra la Giacomina Gianzi Trucca, l'avessi ammazzata a legnate. Oh figlio, me lo sto chiscendo, tutte così solo fa. Chissà mia, mi fa birra su civitte. Ma che ci vuoi dire su piccirigge? Rosa, sono anziniere di niche e niche. Sì, no, non ne vogliamo più. Precisamente. Per me Giulia è diversa. Vede, è femmina come mia, però ve l'ho creso padre. E a me sta cosa mi fa male ancora che assai. Maria Rosa, un pericolo. Chi sei mascoli piglia e mette a testa sutta. Tutta sua zia, eh. La verità è che se avessimo parlato prima, astura vita mia, avessi stato diversa. Ma avessi maritato in una grande sala. 750 invitati, felice. E innamorata come avevo sempre desiderato. Avessimo stato sorelle unite. E no, cani a pesse fagiona. Palla pittia. Mamma mia, ma pazienza mi finio. Mi rosicavo figa da pazienza. Ad un certo punto della vita ti accorgi che le cose devono cambiare, vire? Hanno a cambiare più forza, perché io non mi tengo più niente nello stomaco. Devo vomitare tutto, segregata, in casa, vittima senza riscatto, eppure qua a pallare, ma finiscila per favore, zitto, del gioco che ci vai più, brava. Sì, ragioni hai. Usarci per ragione. E che abbiamo a fare? Contaricilla a tutti quanti? Sì, Franca, se era necessario contaricilla a tutti quanti, sì. Sì, giusto, ragione hai. Cioè, perché non andiamo casa per casa a tuppugliare le porte? Signora, buongiorno, come sta? Buongiorno. Ah, vuoi sapere una cosa? Mio marito mi erano allignati da mattina fino a sera. Ma che mi sta dicendo? Morta sono. Taglia secca. Puro suo marito? Certamente. Eppure mi pareva un uomo così distinto. Proprio distinto era. Un avvocato così preparato. Mi raccomando, non lo deve dire a nessuno. Ma chi fa? Scherza, signora mia. Me lo sono già scordato. Non lo dirò a nessuno. A nessuno. A nessuno. Ma cosa ti credevi? Che su lunga sanoscia succedano queste cose? Un silenzio è l'unica chiave che chiude qualsiasi porta. Ma tu te le immagini che fa disonore per tutti? Nessuna di voi è riuscita ad uscire da queste carceri domiciliari. La volontà è tua, è noscia. Ma noi ci pensavamo alla gente, alla mamma. Eppure a Iggi, sì, pensavamo pure a Iggi. Le cose si dovevano fare prima. Prima. Oramai un destino ci pensavo. A levare questa croce di sopra spalle. Ora morse pure Iggi. La vita tu li vau pure a Dio. La vita? Diabetico più com'era quanto vi accampare ancora. Già. Poi tu ogni domenica dolci. Ogni domenica. Festivi compresi. Diciamo che una mano pure tu ci arrasti il destino, va. Buona. Pure tutte rue. Piace lui un macuntato, giusto? E perché? Ti sembriamo persone che nascondiamo qualche cosa? Maria! Chi faciste? Io niente. Ci feci un regalo. Ma chi? Ma che state dicendo? Ieri era San Carmelo. Vuoi che non ce lo faccio un regalo? E così ho chiamato Franca e siamo andate in pasticceria. Un disio di irsi fritta? Che combinasti? Dio Michele, buongiorno! Buongiorno, signora Maria, che piacere! Come mai da queste parti? Che le preparo? Oggi è San Carmelo e volevo portare qualche cosina a casa. Me che mogliere fantastica, che già mi ha mai un pensierino, mai una sorpresa. Eh sì, è proprio una sorpresa. Mi ricisse. Allora, mi deve riempire un cannolo, quello più grosso che ha. Certo, e che ci mettiamo? La ricotta con le scaglie di cioccolato. Sì, quella con le scaglie. E un poco di granella di pistacchio, ce la mettiamo? Ce la mettisse. E una ciliegina alle estremità? Ce la mettisse. E una spolveratina di zucchero a velo? Puro zucchero a velo, sì. E senta, una scorzatina d'arancia, che dice, ce la mettiamo? Pururu, signora Maria. Mia. Ci mettesse una bella scocca che me ne posso dire. Ecco a lei. Mi saluti tanto suo marito, gli faccia tanti auguri da parte mia. Chissà, marito fortunato. Fortunato con la F maiuscola. Carmelo. Adesso che ti puoi dare. Indovina che giorno è oggi. Oggi è festa, è San Carmelo. E voi che non ce lo faccio, un pensierino, una cosa rinendo a mio marito. Tale che San Cannolo che ti vuoi dare. No, è rosso, che sonico che è me. C'è nero, non chi rosso che disse che è me. Con te a ballo, Carmelo. E me ne mano tolla, la figliere che mangia una cosa tipo canuzzo, veramente brutto. Vai avanti, colza, bravo. Stai a settare e ti da io. Oh, signor, veramente felice, però rabbera sta bocca, che comunque cosa so poco che ci già, se avanti mozzica che meno mangia, manda così rabbera sta bocca così. Ma che sangue, che passione, dai, ma sei tuo sogno, veramente felice. Ma mia, veramente assai che ti veniva a mangiare un cannolo rivisto. Oh, da immaginare che c'era la Cicina. Oh, la Cicina, che danno secondo piano. Un mio cannolo che tu hai, e ci disse, signora Tremasse, che è super mio marito. E poi dici pure che ti voglio bene, avanti, musica, che è meno mangia, avanti, che è meno rapa, la sta con cavalli. Carmelo, tutto di lato, scusa, ma l'interno era in terra, ma fare passare la riapenza, ma dov'ero sta ricetta avanti, mozzica che me l'avanti, bravo, la sta bocca così avanti, e facciatelo pure tu, su che non lo si andava! Ci piaci io? Ci piaci io? Ah, mia, dire come si rosicava le punta e punta, e come mi tagliava! Maria un cane che si scandava che ce l'avevano l'osso. No, io non ci posso credere. E tu sapevi tutte cose. Orba di Locchi. Sta cosa va a morire il cane, non la deve sapere nessuno. È già morta qua. Era diabetico. A Igiu cuciuricia di mangiarsi tutti sti dolci. Oh. E io giudizio lo signore con la muccia invece. Niente. Tranquilla. Un altro momento, signore. Fici finta di non vedere niente. Si girava da trabanna. Tutte complici. Sì, vero, è brava. Complici. Fino alla fine, nel bene e nel male. Silenziose, femmine, senza voci, complici di vita e ora pure di morte. E tu non ci dici niente. Io dico che ha ragione. Ma che cosa, ammazzare i cristiani? Ma tu vero, Rice? Ne ammazzavo tutte e tre, scuidaste. Ne ammazzavo ogni giorno. Questo lo capisci oppure no? Senti, ricemo sul rosario. E speriamo che questa volta, oh signore, si passa una mano nel cuore e ne perdona tutte e tre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Siamo più neure di un euro da siccia, siamo più neure di un euro da siccia, siamo più neure di un euro da siccia, siamo più neure di un euro da siccia, siamo più neure di un euro da siccia, vi piace, vi sbattisse a testa a muro. Puro che già mi sbattisse a muro, arrapissi come una nuce. Femmine di panza, femmine di pace, femmine di casa, sì, sì, siamo femmine che cosci sembra pette. Ali, volessi essere un mascolo solo per sbatterci la faccia. Della recilla. E poi toppare ciavuca con l'origine ai. Su mascole. A ragionano caminchia, bisogna lo sapere tutte e tre. Ma io ritagliarmi l'unia per sempre. Perché se mi crescono con una carezza ci scippa facci. Girati. Girati la giappa, non mi tagliare. Zitto, non ti putare, non ti preoccupare. Che ce l'hai per sopra? Mi dire capire. Mi sposto in mutande, giase e arraggia. Vi cui per tutti, ma zittere, certo, perché sennò poi la gente che deve dire dopo 2 anni di matrimonio? A cui per mia? A cui per nostra? No, a cui per di chi che fuciano in silenzio? E fate finta niente, che siamo solo, certo, saggio. Ma accomigliare tutte cose, sì. Però, dire, se io potessi veramente, ma sbattissi sta testa a muro. E voi facessi vedere che succede nella camera da letto mia. Perché se il sangue è lo stesso, come dite voi, il dolore magari si sente. Grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Siamo più un libro di un libro da sì, c'è un giorno andrei fa. Adesso è l'ora della nostra morte. E così non cambia niente. Noi viviamo al buio come Tagiarite. Che sapete se cai a fare? Ma immagino io non nasci. Sei vecchio e riposce. E me la vai a scacciare sta testa. Sono l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Nessuna è riuscita a salvare nessuna. Ma se c'erano sciamace, a stura di cose avessero canciato. Nessuna di tutte cicce di soddisfazione. Nessuna. Magari ci siamo per nostri figli. Già. Siamo figli di femmina e madri di figli femmine. Siamo solo femmine. Siamo stesso sangue e apriamo tutte e tre. A voi tu non avere una figlia femmina. Sì, però io ora vivo cuscanto per insegnarci a rapisi l'occhi. Perché a verità è un'altra cosa. E l'uomini un su tutto uguali. Sì, ci sono chi cannibali che ti mangiano un cuore. Ma ci sono pure chi con cuore turunano invece. Bisogna solo saperli riconoscere. Sente, Dale, a me non mi sfugge niente. Appena scopro che chi si fa soffrire la mia figlia, ci faccio scippolocchi in direttissima, sì, non è un problema. E chi fai? Segui fino a una camera da letto? Sì, io seguo, sì. Uno è uno stato. Ma poi io dico una cosa. Io piccinigia ancora mi l'annavo un petto. E tu già pensasti cose? Ma Rico. Ma magari sto collo ripelliccia tu stioni, tu potevi levare. Ti piace? Un regalo a mio marito. Per comprarlo abbiamo dovuto stringere un poco sul mangiare. E certo, nella vita uno un po' di sacrifici la va a fare. Certo, se non mi pare giusto. Senti, ti voglio dire una cosa. Dici, no, che quando muore qualcheduno, nell'aria si sprigiona profumo di fiori. Io sento sciavolo di zagara, che ne saccio, magari è un morto siciliano, allora sprigiona profumo di zagara. Franca, io ce l'ho, non lo senti. Ma che ne saccio, tu non ti ha profumato mai nella tua vita. Perché oggi è festa, sto lottomeo è a colori. Sì, infatti il rosso ti dono. Grazie, sono. Secondo mia è un scifora a razza. Ma immagino ma può fare con quel che altro, sicuramente. Rosa, non è possibile. Ascoltami un attimo. Ora dobbiamo cambiare. Andiamo a rompere sta catina. La volevo rompere fra? Parla pittia, e ora catina mi fa scattare d'oro. Ah sì, e poi che fai, t'impegni? Oramai non cancia più niente. Chi giù che successo è successo, non si cancella più. Ci sarà per sempre, capisci? Chi rompe ormai, chi morsero tutte e due. Mamma mia, ma che fastidio, che me non educavo, non fastidio qua. Finiscila pure tu e riri tanticchia. Riri? Ti pare a tia che è facile? Ti pare a tia che si può canciare a così? Ti pare che domani rapa finisce e c'ha su sole? La fai facile. Maria, tenimi che c'è una rivissina che faccio svegliare. Taliacca, ci sono lividi? No. Talia meglio, ci sono lividi? Un ci su, fra. Ci su. E come se ci su? Tutti i caso, uno più uno, livido più livido, e possono passare 100 anni. Io me la ricordo tutte, uno più uno. E a meno coraggio di divorziare ci lappe. E chi su sapemo? Ma gente parla. Come si fa a nascere in casa senza russiare. Ah, gente, a gente. Io solo i primi 10 anni camminavo con la testa bassa. Poi mi sono rifatta una vita e adesso tutti mi rispettano. Mi ricordo quando vitti per prima volta, mi scoppiava il cuore. Era l'amore della mia vita. Mi dicia Franca, e io voglio a tia, ne mo maritare subito subito. E mettessi in croce a nostra madre. A 18 anni ti maritassi. A 19 anni nasce Giacomina. E dopo 9 mesi questa figlia Nica l'assicutai di in casa. E tutto chiesto per fettare vino in casa 24 ore su 24. Tutto per mia, e pu sangue che mi fici cittare. A mia 2 anni di legnati mi abbastarono. L'assicutavi, ma poi tornava e tu a volte ci rapivi sempre. Oh. Vero, ci rapia sempre. Ma so che era? Appena varcava già volta per l'ennesima volta, già mi tagliava come un indemoniato. Io mi chiudia l'occhio e pensava, cancia. Stavolta è sicuro che cancia. Era il cuore che mi parlava. Ma alla fine, a coscienza mia di femmina, ci arrenisciò a dirci di no. E perché si continuava a soppuittare, mi avessi ammazzato io stessa. Ma il problema era Idro, e Idro si navigare. Mi ricordo, quando mi venia a travagliare, la mente che così a rite ripisca, mi tagliavano tutte quante. Chi c'ha vite ritagliare? Me, fra. Sì, che la delevede, ma come mai? Se, lo sai che mi successe? A ieri sera, a via cucinare, rapivo sti petto per pigliare una pignata e mi sbattevo una faccia. Stamattina, per esempio, prima di venire qua, mi carivo una cosa in terra, ma abbassai e sbattì un pizzero tavolo, sogno sbadata. Mi, fra, ti nasce ancora sangue. Sogno sbadata, che ci volete fare? E che sono io un euro, fra? Ma quali, chi so? E chi sono ufficio 2 anni fa? Stavo facendo le pulizie in casa e sono scivolata a terra. Sogno sbadata. Ma che ci avete in italiano? Continuate a così. Cosite. Ci avete l'italiano. Ma c'è mia. Sogno tutto un livido. Ci metto a nicchia quando tutta. A picciriggia chiangi. Che fai una senti? Si suido. Ma tu che vuoi a stura? Perché mi stai talendo così? Non mi toccare, Salvatore. Non mi toccare che ti giuro, ti etto fuori in casa! Disgraziato! A carne mia ti mangiaste! O fa pure sopra, io! Ti innaghieri davanti all'occhio mio, ti voglio vedere che ho fattente! Cane di mandano, diavolo maledetto! Ma scusi come ti ho messo a andarcene! Continua! Ammazzami! Ammazzami, che arriviscio di notte a notte tra fuoco! Continua! Non c'è tocchio niente! Non c'è tocchio niente! Ti voglio vedere che ho! Non ti voglio più! Non ti voglio vedere che ho! Diavolo! Ma scusi maledetto! Disgraziato! Ti voglio vedere che ho! È passata sta nottata. Ah, io mi sento più leggera. Maria, astuta luce che si è fatto giorno, finalmente ha lasciato questa casa. Aspetta, aspetta, che chiura porta, metti che su torna. L'umore è morto e indietro non ritorna. Meno male, soro. Ma picco e vivo, a nascere un'altra volta, c'è sempre tempo. A nascere un'altra volta. E ora ne aspetta che tu che potremo fare pegnace. E per crescere i nostri figli. E pensare un poco di più a voi, avoci. Pensare un poco di più a noi. Certo! Vinniti in un parrucchiere, baccattate 2 vestiti belli, una bella passiato cassa. Ma finisci. Ma finisci, la senti. Ascigliamo sta fotografia. Ma sennò che ci puittiamo romano cimitero. Forza. Ma, Maria. Dammi fotografia. Aspetta un minuto. Via, fai una cosa. Aspettami tu. Aspetta. Amoni. Ma c'è mia! Che è? Ma certo che per antichi ne vestiamo! Mira! Parla pittia, io sempre moderna m'ha vissuto. Mamma c'è mia, ma che fotografie ci succa noi? Ro? Rosa? Te li so che trovare? Ce la ricordi? Un navio buono. Guarda, passaci la fra. Ah, ma spero che di cosa ci sono venuto, ti ricordi quel giorno? Io piangevo perché avevo litigato con papà. E tu mi mettivi in camera per ginocchia. E mi cantavi già canzoni e mi passavano tutte cose, te la ricordi? Sì, la canzone era mamma. Sant'Antonino. Ti ricordi già? Me la canti. Me la canti, ne ho bisogno. Sant'Antonino, mannatici sonno, a Maria che n'avi bisogno. Sonare amori, sonare i santi, chi mi proteggino tutti quanti. Ah, ma fra pure tu. No. A me sti cosi tenero non mi hanno piaciuto mai. Dai, per favore, un minuto, ma ci vuole, dai, insieme, dai, uno, due, tre. Sant'Antonino, mannami i soldi. Ma come pensi sempre una cosa? E Sant'Antonino, mannaci sonno, no sordi. Ma che fai? Ci spieghi pure, ma la sera, mamma mia, ma che capite hai una sta fotografia? Fare una scupa. Ma lecca, la settimana prossima me ne vanno a parrucchiere. Ma quale settimana prossima? Domani ci emo. Ma se domani siamo al cimitero? E poi ci emo tutte e cino parrucchiere. Ma gente che va a dire, fra? Chi può dolore ni scero foggi. Mi piaceva questa sola, ma sai che non è giusto. Dalia Cacciacomino. Chi è? Ci assomiglia precisa. Ma si fotografia di tali sulla, come fa? Oh, uviretti, la mendiri, tuo figlio e poi si paraggia. Fatti delle domande, mamma mia. Senti, ci chiamo sta fotografia pigia, così non la vamo di ravanza, così è una cosa bella. Allora, questa, per lui. Ma come vuoi fare? No. Poi mi passa voglia di buttare il cicciuro al cimitero. Allora, questa, chissà? No, chissà, no, ha un occhiapetto non chiuso, pare che ti fa l'occhio. Ah, c'è che la tua vita per indossare, allora. Chissà? No. Ah, la faccia di mafioso, poi tu sonne notte. No, sono fisso già manco, in verità. Scegliere. Chissà. Sei sfocata. Ah, allora picchisso mi piacia. Lo spettacolo Tadrarite, Pipistrelli, scritto e diretto da Luana Rondinelli, con Claudia Guzmano, Anna Clara Giampino, Luana Rondinelli. Lo spettacolo Ragazza in erba, da un'idea di Alessia Bellotto, scritto da Loris Di Pasquale e Alessia Bellotto, con Alessia Bellotto, regia Loris Di Pasquale, mixaggio effetti sonori Matteo Di Simone. Molte cose cambiano nel corso della nostra vita. Che ne so, per esempio i gusti. I gusti cambiano con l'età. Pensateci. A me il gelato al pistacchio è iniziato a piacere quando avevo 20 anni. Prima lo detestavo. La stessa cosa alle verdure. O ancora meglio, lo shopping. Quando ero piccola io lo adoravo, anche perché spendevo tutti i soldi di mia madre. Lei mi doveva tirare per un braccio per farmi uscire dai negozi. Adesso invece servirebbe l'incredibile Hulk per spingermici dentro. Costa crisi. L'unica cosa a cui io sono rimasta fedele per più di 30 anni, 34 per l'esattezza, è l'amore per il numero 7, che mi accompagna dal giorno in cui io sono nata, il 7-7 del 77, palesemente un segno di Dio, o della passione ossessiva di mia madre per l'astrologia. Infatti sono uno dei primi parti cesarei della zona di Piazza Mazzini a Padova, con tanto di complicazioni. Anche l'amore per questo numero era destinato a finire e a tramutarsi in odio proprio il 7-7 del 2011, giorno del mio 34esimo compleanno. Un compleanno di merda. Porto di Civitavecchia. Imbarco. Io, vestita come una bomboniera, avvolta in un tubino bianco e rosa confetto. Occhiali a goccia, zatteroni rosso fuoco, rigorosamente anni 70, con un tacco grosso. Ma così grosso che mi si incastra, ma perché cazzo non li fate più staccati sti pedali della Twingo? La mia Twingo, nera, sedili in alcantara color crema, avvolgenti, senza aria condizionata ma con il tettino apribile, dove l'unica cosa che passa è un sole che picchia perpendicolarmente e mi fa grondare dalla fronte giù per la schiena fino al buco del... Due colpi di ventaglio e via! Un altro metro in avanti verso la Sardegna. Nel portogetti due biglietti per Santo d'Oro e l'indirizzo del paradisiaco residence Laguna Blu. Rigorosamente pagato da me per la gentile concessione di Agos Ducato Tag 0,91%. In pratica 190 euro al mese per 4 anni. Un affare. Lui. Bello. Simpatico, insomma, atletico, prestante, ok, fisico da tavolino, ma di che cazzo ti sei innamorata allora? È un avvocato di successo, promettente, fatto sta che è rigorosamente in ritardo, 1 ora e 45 minuti per l'esattezza. Ha bucato la gomma della macchina, poverino. E io mi chiedo, ma quale uomo impiega 1 ora e 45 minuti per cambiare la ruota della macchina? Sbrigati! Ma niente può rovinare il mio compleanno. Metto la musica dello stereo a palla. I feel good, na na na na na na na. I feel in my night, na na na na na na na. I feel good, na na na na na na. I feel in my night, na na na na na na. So good, so good, so good. Oh cazzo! Sul sedile in alcantara mi accorgo che c'è una macchia grossa così di cioccolato. No! Il profiterol per due, per me e per il coglione, si sta sciogliendo al sole. Prendo la scatola, l'appoggio per terra. Merda, dove mi pulisco? E poi c'è la bottiglia di prosecco al sole, potrebbe scoppiare, devo spostarla. Provo prima con l'ascella, ma non ci riesco. Allora provo con i piedi, ma il tubino non mi permette di scavallare il sedile. Ho trovato. Sono lì. Sto per addentarla quando... No. No, agente, non è come pensa. Accosti la macchina, prego. Pum! Auguri. Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia. Ambiente asettico e ostile. Alle pareti dei bellissimi quadri, sempre con lo stesso soggetto. Carabiniere con paracadute, carabiniere sugli sci, carabiniere su moto d'acqua, carabiniere su motocicletta. Signorina, mi sta ascoltando? Davanti a me un carabinierino che picchietta col suo ditino goffamente sulla tastiera del suo computer, rivolgendosi a me in un modo di fare tutt'altro che simpatico. È stata trovata in possesso di 9 grammi di canapa indica, nella fattispecie marijuana. Ma è per uso personale? Questo lo dice lei. Ma io sono pulita, non mi pare proprio. Lavoro e pago le tasse. È una delle poche. Sono un'attrice. Al mio sono un'attrice, il carabinierino diventa un gigante. Si toglie gli occhialini e inizia a scrutarmi incuriosito. Ah, un'attrice. E che cosa ha fatto? In che senso? Fiction, film, telefilm, qualche televendita? No, per adesso ho fatto solo da pubblico per Domenica Inn. E pubblico? Il gioco è fatto. Il carabinierino schifato riprende a picchiettare sulla tastiera del suo computer. E giorno 7-7-2011, la cui presente Sara Fiorentini, nata a Padova, 7-7-77, minchia non sciogli lingua, è stata trovata in possesso di 9 grammi di canapa indica presso il porto di Civitavecchia all'imbarco per la Sardegna, rischia per cui, a norma dell'articolo 75 del predetto TU, pene peculiari che vanno da un minimo di 6 a un massimo di 20 anni di reclusione e multe dai 26.000 ai 260.000 euro e bla bla bla bla bla bla bla. Ha qualcosa da dichiarare? Prego, fimmi il verbale. Prego, fimmi il verbale. Potrei avere un fazzolettino di carta? Nata il 7-7-77. Pene che vanno dai 6 ai 20 anni di reclusione. Multe dai 26.000 ai 260.000 euro. 7-7-2011, 9 grammi di marijuana. 6-20, 26.000 ai 260.000. 7-7-77, 7-7-2011, 9-6-20, 26.000 ai 260.000. Quando mi sono ripresa dall'ubriacatura di tutti quei numeri, ho pensato che la prima cosa giusta da fare era chiamarlo. Col cazzo, ma è l'unico avvocato che conosci. Piuttosto becco dai 6 ai 20 anni di reclusione, multe dai 26.000 ai 260.000 euro, dai 6 ai 20 anni di reclusione, multe dai 26.000 ai 260.000 euro, dai 6 ai 20 anni. E basta con questi numeri, lo devi chiamare. No, lo devi chiamare, no, chiamalo. L'ho chiamato, il coglione. Pronto, Luxi, che nome da frocio. Ah, sei in Sardegna, caro. Quindi immagino che tu non abbia letto il Gazzettino di Padova, caro. E lui, indovinate un po', inizia a vomitarmi indosso, che poverino. Da quando è andato in vacanza in Sardegna, poverino. I suoi conoscenti non fanno altro che rompergli i coglioni chiedendogli consigli giuridici, poverino. Sai, brutto ciccione antipatico, spero di svegliarmi domani mattina e scoprire che la Sardegna è affondata nel Mar Mediterraneo e che ti ha mangiato uno squalo, coglione, clic! Questo è quello che avrei voluto dire. Ma fin da piccola ho sempre avuto la, come dire, la particolarità che quando mi saltano i nervi inizio a piangere incontrollabilmente. Ti auguro una buona vacanza. Clic. Sono di nuovo sola. Monolocale all'Arcella. Ampia panoramica dal piccolo lucernaio che dà sulla strada. Pareti fatiscenti tenute insieme da una carta da parati a fiorellini gialli e verdi in un signorile palazzo degli anni 70, un blocco di cemento mai restaurato in uno dei quartieri più malfamati di Padova, ma in dolce compagnia di una colonia di nigeriani silenziosissimi che quando vado a fare la spesa mi chiedono con quell'aria ingenua: ero coca, marijuana, hashish? No, no, grazie, non fumo, non fumo. Piuttosto non posso fumare. Eh no, sei colpevole, colpevole. Ti hanno beccato con 9 grammi di marijuana. Sì, ma era per uso personale. Beh, questo è da vedere. Come da vedere? Scusa, mica mi hanno beccata a venderla all'angolo della strada. No, ma superava la dose consentita. Ma cosa c'entra, scusa? Se uno va in vacanza in Sardegna, mica si prende e porta via solo un pacco di pasta, una scatola di tonno, una banana. Anche perché te le mangerebbe tutte il coglione. Punto. E allora perché mi sento colpevole? Eppure vai al cinema come tutti, sì, e come tutti pago le tasse, quasi tutti. Mi piace leggere, fare lunghe passeggiate, comprarti tutti i CD anni 70, appunto. Eppure, in fondo al mio cuore, mi sento colpevole. Ma dov'è il delitto? Chi è l'assassino? Io. Ho continuato così per tutto il mese di agosto, camminando sempre sulla stessa linea, tra il tamburreggiare del soffitto del mio favoloso sottoscala a suon di Bob Marley, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, indietro. 1992. Parco della Fornace, uno sputo di verde in mezzo ai palazzoni della città, dove neanche il sole ha il coraggio di entrare, dove finisce il mondo civilizzato ed inizia quello fantastico, dove quattro sfigati della mia età andavano a nascondersi per fumarsi una bella canna in compagnia. Eccoci lì, ultima panchina. 23 maggio, strage dei capaci. 25 aprile, Cossiga dalle dimissioni da presidente. Il 17 febbraio, c'è Mani Pulite. Mentre cerchiamo di ricostruire la cronologia degli eventi che quell'anno hanno caratterizzato e cambiato la storia del nostro paese. Il 19 luglio l'attentato di Borsellino. E il 25 maggio Scalfaro diventa presidente. Il 12 marzo viene ucciso dalla mafia Salvo Lima. Il 5 aprile ci sono le elezioni politiche. Il 12 marzo è morto Anthony Perkins. Non che c'entrasse un granché. Quello che volevo era sfruttare la mia passione cinematografica e fare colpo su di lui. Steno, bello più che mai, tutto intento a fare il lavoro sporco. Che cosa sei sto qua? Paco, spirito contadino di Piove di Sacco, mezz'ora di autobus tutti i giorni per venire su e giù da Padova a frequentare il Cornaro, unico liceo scientifico della città, alternativo. O te mi dici che cazzo sei o te spacco. Ammazza Paco, sei sempre solito violento. Lucia Stefani, originaria di Roma, perciò con una allure esotica, sì, quella che viene dalla capitale, e poi con i suoi 2 anni, 10 centimetri e 2 misure più di me, una figa da paura. Carlo De Pretis, detto Siffredis, per la sua grande passione, il sesso a 360 gradi. Tu puoi partire da discorsi lontanissimi come l'elezione del presidente americano e lui finisce sempre lì. Quanto fighe sono Tracy Lords, Jenny Jameson e un'altra dozzina di pornostar americane. E poi lì, seduto in disparte e in silenzio, non per sua scelta, c'è Beppe. Definito dai professori un caratteriale, da noi della cumpa uno sgaio, cioè simpatico, da me il mio migliore amico. Beppe è capace a mezzanotte di prendere la macchina, andare in discoteca fino a Jesolo da solo, tornare indietro, buttarsi dentro la fontana di Piazza delle Erbe all'alba cantando a squarciagola una canzone di De André, che è il mio cantante preferito, poi andare a prendere i cornetti al cioccolato bianco che io adoro e portarli al mio portiere prima che tutto il condominio si svegli, così faccio una stracolazione. E proprio nel momento clou della nostra discussione: oh, stai attenti che se devo arrivare sacco, nascondevi Dio qua pianta. Ammazza Paco, ma siamo in 6, dove cazzo ce nascondiamo in 6? Vabbè fioghe, parlo mia, sa, così uno buon ampie vedute poi. Ma sei sicuro? Sì, son sicuro. Ma Steno, sta attento con quella sigaretta. Ma non sei una sigaretta, coglione. Tradotto: ragazzi, state attenti, sta arrivando sacco, nascondetevi dietro quella pianta. Ammazza Paco, ma siamo in 6, dove cazzo ci nascondiamo in 6? Va bene ragazzi, ci parlo io a sacco, è uno buono, ampie vedute poi. Ma sei proprio sicuro? Sì, sono sicuro. Ma Steno, stai attento con quella sigaretta. Ma non è una sigaretta, coglione. Paco deglutisce per paura che Sacco, il nostro professore di biologia al Cornaro, abbia capito tutto. Impietriti restiamo a guardarlo parlare con il professore, e ogni tanto si gira e guarda noi, poi lui, poi noi, lui, poi si gira verso di noi e scuote la testa, una figura di merda. Tornato da noi, cosa mi ha detto? Mi ha detto che per oggi e fa finta di niente, ma che la prossima volta manda a chiamare i genitori e che se dobbiamo fare robe, al manco di farle bene e andare lontano dai parchetti vicino a casa. Steno, esenda via, fammi fare un tiro al manco. Steno, Steno, Steno, finalmente sceso tra di noi. Steno, vero nome Stefano Tognolo, mito di tutte le ragazzine con gli ormoni impazzite. Steno, frutto proibito del giardino dell'Eden. Steno, il James Dean Padovano, occhi blu penetranti, capelli sempre ingellati, giubbotti in pelle nero, jeans attillati su quell'andatura poi, che quando tornavi a casa non potevi non scrivere sui vetri della tua cameretta: Stefano Tognolo figo, Stefano Tognolo gallo di Dio, Stefano TVB, TVTB, TVTB, CBCR, CBR, che cosa stai facendo? Eh? Stefano Tognolo? Figo? Il figlio dei panettieri? Sì, mamma, perché? Perché la mamma di Beppe mi ha detto che frequenta brutte compagnie, ma si drogano. Non l'ho frequentato il tuo Beppe, vero? No, mamma. Nella vita bisogna mentire, è un dato di fatto. Quando sei giovane ami Stefano Tognolo e menti a tua madre per non farla preoccupare. Quando cresci frequenti un avvocato ciccione e antipatico mentendo a te stessa per non restare sola. Cancella subito quelle scritte, deficiente! Sbrum! Stefano Tognolo figo. Stefano Tognolo gallo di Dio. TVTB, TVTTB, CBCR, CBR. L'ho consumato quel vetro, ma a me Stefano Tognolo non mi caga di striscio. Pensa solo alla moto. Sì, e alla sua grande passione. Questi erano i miei pomeriggi durante la sofferenza per l'amore non corrisposto di Stefano Tognolo. Rinchiusa nella mia cameretta. Il giornalino, cioè, in formato gigante, aggiornata da me tutte le settimane, con le facce, i poster di qualunque sbarbatello che mi guardava con la faccia da duro. E lui, Beppe, fermo lì ad ascoltarmi in silenzio per delle ore, aspettando il momento giusto per consolarmi con i suoi abbracci amichevoli, con i suoi abbracci fraterni, con i suoi abbracci... Beppe, sono gli ormoni! Che cosa ti stavo dicendo? Se facemo un caneo. Da quando Steno è sceso tra di noi, la sua frase preferita, se facemo un caneo, è diventata il nostro cavallo di battaglia. Il tuo. Incredibile ma vero, 3 mesi dopo, quella frase me la sento dire proprio da lui. Capodanno 1993. Evento dell'anno festeggiato in una villa sulle colline del Padovano. Il casolare di Paco, appena sotto Piove di Sacco, dove il mio sogno di conquistare Steno si è infranto in mezzo al fango che ha spezzato il mio tacco 12 proprio appena arrivata. Ma poco prima della mezzanotte, mentre me ne sto in disparte a meditare sui massimi sistemi dell'universo, mentre mi convinco di poter risollevare e rispondere a tutti i dilemmi dell'essere, mentre cerco di smaltire una mega sbornia che tutti ho fatto passare come una scusa per riscaldarmi, se facemo un caneo, e dice a me, Steno si siede accanto a me, mi guardo intorno e non c'è nessuno. Allora è proprio me che vuole. E sì, dopo che ti sei offerta a lui come una naiade in calore per 3 mesi, potevi svegliarti prima, imbecille. Le voci lontane degli altri in casa, la musica di sottofondo e lui. Bello, eh? Beh, è una questione di gusti. Con i suoi occhioni guarda la notte. Che poeta. A me dà l'idea di uno che non si lavi un granché. Se facemo un caneo. Sì, sì, ma prima vai a lavarti le manine, va. Eccolo lì. Ravanare nel pacco. Tirare fuori un po' di fumello. Scaldarlo sul suo palmo lercio. Prendere una cartina. Mi fai un filtrino. Punto primo, le chiedi per favore. Punto secondo, abbassi la voce. E poi tiri fuori un po' di fumello dal tuo pisello. Ma cosa credi di poter concludere con così poco? E non lo so fare un filtrino. Facciamo che te lo mostro io, va. Oh, guarda, devi fare così. Guardatelo come si impegna. Ecco. Così. Guarda che stelle. Stella. Ruberei tutte le stelle del cielo e te le ficcherei negli occhi. Eccolo al punto. Guarda, visto che è Capodanno ti faccio un carciofo. E lei non ti fa proprio niente dopo. Che cos'è il carciofo? È la versione artistica del dozzinale caneo. Il carciofo a me pare di più il missile con cui vorrebbe farti la festa. E mi chiedo come potesse piacermi uno sfigato del genere. Ma cosa volete farci? L'adolescenza. Dopo non so quanto, da quel famoso... Se facemo un caneo, sono ancora lì, e se dite qualcosa, giuro, bagnata, con gli occhi arrossati, la bocca impastata, a ridere come una scema mentre il James di Impadovano continua a parlare, a parlare, a parlare. E poi i fuochi, i fuochi, i fuochi. Oddio, sono finiti i fuochi, io dovevo tornare con Beppe, che stronza che sono. E poi lui mi ha raccolto quando mi si è spezzato il mio tacco 12. Ma che cazzo glielo continua a raccontare se continua a guardarti con questa faccia da idiota? Oddio, le chiavi, ho lasciato le mie chiavi di casa nella sua macchina. Sì, ma non ti ho finito di raccontare la storia, e poi bisogna che te la racconti dall'inizio, dall'inizio. Ma non ti pare che siamo già alla fine, idiota? Io ho capito, ma è mezzanotte passata e io ho lasciato le mie chiavi di casa nella sua macchina. Ho lasciato le mie chiavi di casa nella sua macchina. Va bene, va bene. Vai, vai dal tuo amico, te la racconto un'altra volta la storia. Entro in casa a cercare Beppe, che se n'è già andato da un pezzo. Ma Carlo De Pretis, che si sta sfogliando un pornazzo collassato sul divano, mi dice: guarda che sul tavolo c'è un biglietto di Beppe con le chiavi. Leggo: ecco le tue chiavi, anima sensibile. Buon anno. Steno mi abbraccia da dietro. Non vorrei mica perderti la magia del Capodanno pensando a Beppe. Ridiamo. Ti accompagno io. Lui mi guarda. Io lo guardo. Ci guardiamo, insomma. Torniamo in giardino senza dire una parola e ancora... lui mi guarda, io lo guardo, imbarazzata. Non saliamo sulla moto? Mi bacia, breve, intenso e profondo. Poi, come in un film di Marlon Brando, sale sulla moto e salgo anch'io e poi via verso i Colli Uguali, solo io e lui nella notte. Stop! Il vento gelido sulla faccia, quel bacio rubato all'improvviso, quel discorso lasciato a metà, Beppe che va via, sono le immagini che mi scorrono nella testa da quel 7/7/2011, come un vecchio film in bianco e nero proiettato per un unico spettatore, me. Mi continuano a scorrere nella testa durante la mia forzata astinenza, nelle notti insonne, mentre faccio la spesa, agli incontri settimanali al SERT. Signorina, cosa sta pensando? Mi dispiace, il cinema è chiuso. Faccia la pipì qui dentro, grazie. Questo è quello che ho dovuto subire da quel 7/7/2011, quando mi hanno definito una diversa e sono stata giudicata una criminale. Ma da chi è stato deciso tutto questo? E soprattutto... su quale base? Ed ecco che nell'isolamento più completo la mia mente non poteva che ritornare indietro, ancora, inesorabilmente. Cornaro, 1993. Quarta C, un museo di scritte rivoluzionarie raccolte in quattro pareti. Luce al neon per valorizzarne i contenuti. Sacco e la sua cantilena di formule biologiche che suonano come un disco rotto, ma con quell'inequivocabile aria familiare. Carlo, scusa Sara, saranno stati i fagioli di mia nonna. E mentre riprendo a incorniciare il nome di Steno dentro a un cuoricino rosso, da dietro Lucia Stefani: Sara, oh, Sara, Sara, s'andiamo a fatto dire, tra poco suona la campanella. Appunto. Arrivato in cortile, Lucia accende una sigaretta e con aria stranita: che hai sentito, Beppe? No, non lo sento da un po' quel nasone. In realtà era da un po' che i miei mi avevano impedito di sentirlo. Già, perché Beppe qualche giorno prima era stato beccato con 4 garmi di erba fuori da una discoteca di Jesolo. Non sapevo che Beppe spacciasse. Ma mamma, Beppe non spaccia, i giornali dicono così, punto. La Stefani mi comunica che l'ha chiamata la mamma di Beppe, preoccupata perché lui la sera prima era uscito di casa e non vi aveva più fatto ritorno. Per giorni non si parla d'altro. Chi sdrammatizza, chi è davvero preoccupato, chi dice che ben gli sta quel tossico e chi, come me, pensa al peggio ma non lo dice. Fatto sta che non possiamo restare con le mani in mano. Sta intorno. I lunghi silenzi e gli sguardi di chi mi conosce da sempre, ma sembra che non mi abbia mai conosciuto. Amo i nostri pomeriggi di Nutella e confidenze, quello sguardo intelligente e silenzioso. Amo quegli abbracci fraterni e forse un po' di più. Amo le lunghe passeggiate all'aria aperta solo, con la natura che mi fa da coro. I miei amici e la loro allegria. Amo la musica a palla e la loro compagnia. E poi amo Sara, chi me l'ha portata via. Odio le testate dei giornali e le facce di quelli che lo leggono e non sanno che potrebbe esserci il loro figlio al suo posto. Ma più di ogni altra cosa odio i miei e loro marcare dritto che ci hanno allontanato senza alcun diritto. L'aria si fa totalmente irrespirabile e perdo la speranza. Cammino fra gli sguardi fendenti della gente che trafiggono il mio cuore. Con la foto del suo volto tappezzo ogni angolo dei quartieri che frequenta. Con la foto del suo volto accendo nei cuori di chi lo ama la speranza. Provo un senso di soffocamento, dolore, sgomento e cieco rancore. E perdo la speranza. Non mi fermo e non mi voglio fermare finché ho la forza nel cuore. Continuo a sperare, anche se in certi momenti una voce dal profondo si interroga: com'è potuto accadere? La mente si fa confusa e il fiato si fa corto. Inizio ad accorgermi che per me ormai non c'è più posto. Cerco ossigeno ed aria pura da respirare. Inizio a correre senza paura, se ormai non mi rimane che saltare. I giorni passano e quello che ci resta è silenzio. Silenzio tra noi del gruppo, tra i suoi familiari, silenzio. E silenzio con i miei, con i professori. Ad un certo punto anche i giornali hanno fatto silenzio. Quel silenzio viene interrotto il 20 febbraio del 1993. Alle 11:03 minuti, Sacco cancella dalla lavagna una formula irrilevante. Alle 11:05 minuti hanno comunicato che il fiume Brenta ci aveva restituito il corpo di Beppe. Durante i funerali, i sentimenti di dolore per la perdita di un caro amico e di rabbia verso una legge che con il suo divieto gli aveva impedito di tenere più di un tot di erba si mescolavano tra di loro, generando in me un vortice di domande. Ma con quale criterio viene scelto un divieto? E soprattutto cosa c'entra un divieto con la vita di una persona? E quali risposte puoi darti di fronte ad una madre che ha perso il figlio per un divieto, che lo vede nella bara con i capelli sporchi e ricciolati, disperata perché sa che quella è l'ultima immagine che avrà di lui? Sull'onda di quel dolore e piena di sensi di colpa, mi decido che devo fare qualcosa per il mio amico. Parco della Fornace. Ve lo ricordate? Lo sputo di verde, i palazzoni, l'ultima panchina, ok? Ho saputo che faranno 10 referendum, tra cui uno che abolirà parte della legge Iervolino-Vassalli. Per chi non lo sapesse, era la legge in vigore allora sull'uso, la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con il referendum si sarebbe abolito il carcere per l'uso personale. Asa, o sai che io non ci credo al voto? Sì, ma se Beppe... Forse se noi avessimo... ci fosse stato questo referendum e fosse stato abolito il carcere, forse Beppe era ancora qui. Mica so, Asa. Organizziamo una grande festa per Beppe. La festa di primavera, la sua stagione preferita. Proprio qui, al parchetto, e con l'occasione facciamo propaganda del referendum a tutti gli invitati. Un successone. Il 77% degli italiani ha votato a favore. Ammazza. Proprio questo ricordo mi viene in mente mentre il giudice sta valutando la mia situazione. Tribunale 2011. Ambiente spocchioso, puzza di muffa e legno marcio. I io costretta mio malgrado a sedere vicino al coglione. Sì, mi sono dovuta far difendere da lui per una questione di soldi. Luxi. Shh. Luxi. Shh. Secondo me c'è un errore. Shh. Ne sono sicura. Shh. Senti, coglione, dimmi ancora un'altra volta. Shh. Io ti giuro, ci strozzo con quella cravatta. Nel 93 c'è stato un referendum che ha abolito il carcere. Silenzio in aula. Scusi, vostro onore. Dopo che mi ha fatto beccare 2 anni e 5 mesi di condizionale, 10 mesi al CERT e 2.500 euro di spese processuali, Luxi mi spiega che la Iervolino Vassalli non c'è più, già perché dal 2004 è stata introdotta la Fini Giovanardi, che ha equiparato l'hashish e la marijuana alla cocaina, l'eroina, e introdotto il principio di dose media giornaliera consentita. La spiegazione del coglione mi lascia pietrificata. Quindi io non solo sono una tossicodipendente, ma anche una spacciatrice. Come chi vende cocaina e eroina? Alla legge. Scusa, allora tu ieri sera sei venuto a letto con una spacciatrice. Scusate, mi sentivo sola. E io per il resto della mia vita dovrò sentirmi come Al Capone durante il proibizionismo. Già. Il proibizionismo. Perché negli anni 30 l'alcol era illegale per tutelare la salute del cittadino. Sì, ma secondo il tuo ragionamento, allora il fumo che uccide milioni di persone dovrebbe essere illegale, e invece è la marijuana ad esserlo. La legge è la legge. La legge è la legge. La legge è la legge. La legge è la legge. Ma che legge è? Le parole di Luxi mi rimbombano nella testa durante i 2 mesi di isolamento in cui mi sono rinchiusa nel mio sottoscala, sì, per la vergogna della condanna, e si intrecciano in tempi regolari alle immagini di quel famoso capodanno, e in particolar modo a quelle mie e di Steno sull'erba. Dopo l'ennesimo tentativo di assemblarle insieme, mi decido che è arrivato il momento di ripartire. E quale miglior partenza se non dal parrucchiere? Anzi, da Paolo, un fenomeno che consiglio a tutte le signore in sala, ovviamente se passate per Padova. Comunque, Paolo Hairstyle, dicembre 2011. Ambiente finalmente chic, me lo sono meritato, dove un taglio di capelli ti costa 100 euro tondi tondi, sti cazzi, anzi visto che ci sono mi faccio anche il colore biondo platino con le mesh rosse. E mentre sono lì seduta ad aspettare e sfoglio freneticamente una rivista di scienze e sociologia, la mia attenzione si imbatte su un articolo uscito per la prima volta nel 1992. Cazzo! Cazzo! Cazzo, ma questa è la fine del discorso di Steno! Sara, ma sei tu tutta matta? Sì, sì, Paolo, anzi, no, mi lascio questo colore. Il puzzle è concluso. Sono tornata a casa e sono rimasta tutta la sera su internet. No, senti, questa nel 1937 Anslinger, durante un'intervista, racconta di un ragazzo tranquillissimo che dopo essersi fumato una bella canna di marijuana prende un'accetta e ammazza padre e madre e le donne. Poi le donne, quando fumavano la marijuana, avevano voglia di sesso, ma non sesso normale, no, sesso con un negro. In tutte le storie c'è un fondo di verità. Ah sì? E allora perché, scusami, io dopo una bella fumata al massimo tra le mie lenzuola ho trovato quel ciccione pelato, e perché se ti rende violenta non gli ho mai aperto quel capoccione quando, finiti i suoi porci comodi, mi trattava come uno zerbino? Perché tu sei un caso patologico? No, cara mia, la verità è che all'inizio degli anni 30 un gruppetto di imprenditori del calibro di Mellon, DuPont, Rockefeller avevano investito i miliardi sul petrolio. La marijuana è la sua diretta concorrente, ma non potendola combattere con le solite solite strategie di mercato, visto il suo bassissimo costo di produzione, hanno deciso di farlo in un modo totalmente diverso. Cioè, il piano è diabolico. Mellon, l'allora ministro del tesoro, mette a capo del Federal Bureau Narcotics Harry Jacob Anslinger, che è niente poco di meno che suo genero. Lui inizia a fare una propaganda distruttiva per la canapa, prima sui giornali, poi in radio, alla fine fa approvare la Marijuana Tax Act e poi successivamente fa inserire la marijuana all'interno delle sostanze stupefacenti. Secondo me è solo una scusa per riprendere a fumare. No, cara mia, ma perché vuoi continuare a credere a tutto quello che ti raccontano? Cos'è che ti impedisca di aprire gli occhi? E quindi tu mi stai dicendo che Beppe è morto per gli interessi privati di quei signori? Sì. Quella sera ho scoperto che c'è una cosa che i potenti dell'economia possono cambiare a seconda dei loro interessi: le leggi. Per questo noi dobbiamo fare molta attenzione e soprattutto mantenere sempre la memoria accesa. Da quel lontano 2011 sono cambiate un sacco di cose. Ho scontato la pena, finalmente ho trovato la mia anima gemella e ci siamo sposati. Non faccio più l'attrice, ho venduto la Twingo io. Per il resto il pianeta va verso l'autodistruzione, siamo in crisi economica e il petrolio sta finendo. E la marijuana? La marijuana sta tornando magicamente di nuovo ad essere legale. E tutto è partito proprio da lì, dagli Stati Uniti, e ne sta anche favorendo la ripresa economica. Io allora ho tirato fuori da un cassettino una vecchia fotografia. L'abbiamo fatta quel famoso capodanno del 1993. Siamo seduti su un divano, ci sono io già abbastanza ubriaca, c'è Paco con due lattine di birra in mano, Carlo De Pretis che si nasconde la faccia con un pornazzo, e seduto su un bracciolo c'è Beppe con in mano una birra e nell'altra un cannone di marijuana. La lucido e aspetto che il vento della legalizzazione arrivi anche in Italia. Sì, perché se Beppe nel 1993 è morto da criminale, magari nel 2016 può essere ricordato come un imprenditore. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare i due spettacoli a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo e Riapparvero gli animali dal 13 al 15 dicembre e Muri il 16 e 17 dicembre 2022. Ben trovato! Buongiorno a tutti, ciao! Partiamo dall'esperienza Ariette, raccontiamola per chi non la conoscesse. È lunga da raccontare, ma in estrema sintesi è la storia di un abbandono del teatro e poi di un suo ritrovamento. Paola e io Nell'89 abbiamo lasciato il teatro, siamo venuti a vivere alle Ariette, sulle prime colline a 30 km da Bologna, e siamo diventati contadini, e poi dopo un po' di anni il teatro è tornato e abbiamo ricominciato a fare teatro, ma questo legame forte con la terra che si è creato non si è più sciolto. E il nostro teatro è un teatro fortemente autobiografico, legato alle esperienze della nostra vita e di conseguenza anche a questo mondo nel quale noi viviamo, che è fatto di natura selvatica, di natura antropizzata e quindi con attività agricole, e che è fatto anche di viaggi nel mondo, nell'Europa, in Italia, con il nostro teatro che portiamo spesso attorno a un tavolo. Passiamo ai due spettacoli e riapparvero gli animali. Tutti e due, intanto sono i nostri due ultimi lavori, Riapparvero gli animali, ha debuttato nel luglio del 2020. 2020 è un anno che penso nessuno di noi si dimenticherà. Luglio era appena finito il lockdown e era tutto deragliato nel mondo del teatro come nel mondo in generale. I progetti di vita e di lavoro erano andati tutti a farsi benedire a catafascio. Noi in questo frangente abbiamo incontrato un testo molto bello di una nostra amica scrittrice francese, Catherine Zambon, che si intitolava appunto Riapparvero gli animali. Lei l'ha scritto in aprile del 2020, in piena pandemia. Noi l'abbiamo letto, l'abbiamo trovato talmente attuale, così lungimirante, capace di parlare del nostro presente, anche se era in fondo una sorta di racconto di fantascienza distopico, ambientato in un futuro in cui gli animali erano stati tutti abbattuti in quanto portatori di possibili malattie, possibili epidemie. Questo testo ci ha molto colpito e quindi con Paola abbiamo deciso di tradurlo e di metterlo in scena nei campi delle Ariette proprio in luglio del 2020 per riuscire a fare qualcosa malgrado tutti gli ostacoli che in quel momento si frapponevano tra la nostra vita di teatranti e il nostro lavoro. E questo testo ci è sembrato molto interessante in assoluto, non soltanto come testo a caldo, e quindi abbiamo continuato a lavorare su questo testo, l'abbiamo messo e portato ad una versione che dai campi si è trasformata in una versione per spazi chiusi, tale teatrali, però sempre in una dimensione tipicamente Ariette, cioè in uno spazio condiviso, senza distinzione di palco e platea, e per numeri relativamente limitati di spettatori. Poi pensa che questo spettacolo ha debuttato pure in Francia in luglio, cioè noi non è che l'abbiamo ritradotto, ma l'abbiamo fatto anche in versione francese. E questo è il primo che presentiamo. Il secondo, invece, Muri, è anche questo è legato in qualche modo alla pandemia, perché porta come sottotitolo Autobiografia di una casa. E l'avevamo concepito prima che succedesse il patatrac, cioè quando ancora non pensavamo al Covid. Però poi ci abbiamo lavorato molto durante il Covid, eravamo fermi, addirittura abbiamo rinviato il debutto che è stato nel maggio del 21, perché praticamente prima non si poteva, i teatri rimasero chiusi dal 23 ottobre del 2020 praticamente al 26 aprile del 21. Ecco, e in questo spettacolo Paola attraversa in qualche modo, grazie alla Casa delle Ariette e alla sua ristrutturazione, attraversa tutte le case in un certo senso in cui ha abitato e quindi attraversa un po' tutta la sua storia di ragazza anche, tutte le case prima dell'arrivo alle Ariette. Ecco, questi, cercando di essere molto sintetico, raccontano i due spettacoli che hanno una dimensione autobiografica, intima, e cercano sempre questo rapporto che noi cerchiamo con gli spettatori, un rapporto molto diretto. Ci dai tutti i vostri riferimenti internet? Se volete approfondire, i nostri riferimenti sono www.teatrodelleariette.it, che sul sito trovate tante cose. La nostra mail è info@teatrodelleariette.it e poi penso che sarà meglio vederci a Roma, che così parliamo a quattro occhi e non attraverso strumenti elettronici. Il Teatro delle Ariette a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, con due spettacoli. E riapparvero gli animali dal 13 al 15 dicembre e Muri, 16 e 17 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. A presto! Grazie a tutti. Ciao! Con Diego Labonia, direttore artistico della settima edizione di Roma Global Brightness dal titolo Nascita, a Torpignattara e Pigneto dal 16 al 18 dicembre 2022, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Raccontiamo cos'è. Roma Global Brightness è arrivata la settima edizione, è un festival di light art che appunto si svolge all'interno del tessuto urbano, soprattutto oramai tra Pigneto, ma in particolar modo su Maranello e Torpignattara. Ormai sono un po' di anni che ci siamo spostati in questa zona nello specifico. Quest'anno presentiamo una serie di opere di artisti sia italiani che internazionali che stranieri, dal 16 appunto al 18 dicembre, sempre in apertura serale ovviamente. Una questione proprio di esigenze di buio, quindi dalle ore 18 alle 24. Quest'anno appunto abbiamo anche un workshop che faremo domenica 18, tenuto da Gianluca Del Corpo su videomapping, e ci saranno anche due interventi di Carlo Infante, due passeggiate venerdì 16 e sabato 17 alle ore 21, quindi con la sua urban experience, i suoi walkabout all'interno del festival. Al momento abbiamo anche c'è attiva un'installazione nella zona del Pigneto, Calla Serenix, un'installazione che è nata un po' verso l'ultima parte organizzativa del festival, comunque è stata attiva questo weekend e sarà attiva anche il 16, 17, 18, nella zona più di Pigneto, nella zona vicino a Necci. Come sarà strutturato rispetto ai luoghi e agli orari? Non ci sono gli orari fissi. La fruizione libera nel lasso di tempo dalle 18 alle 24 nei giorni in cui siamo aperti. La maggior parte delle installazioni sono outdoor, quindi sono all'aperto. Ce ne abbiamo alcune al chiuso, ma fondamentalmente solo Anamorfosi di Panzetti, che sta in via Cobbligante 2. Poi il resto sono tutte installazioni che si possono fruire all'esterno. L'unica che è all'interno, ma è sempre in una zona aperta, è abbiamo pure quest'anno l'Arena Aurora, che ormai è diventato un po' il nostro posto simbolo, perché siamo gli unici che riusciamo ad aprirla e a farci delle attività culturali, con Amnesia di Cristian Rizzuti, un artista italiano che vive a Barcellona. Per il resto sono tutte installazioni che si trovano lungo il percorso che va più o meno da Piazza Perestrello, su Via della Maranella, anche sull'acqua bollicante, poi Torpignattara per finire a San Galli. Questo è più o meno un tragitto ormai consolidato del festival. Come si sta sviluppando nel corso degli anni? Che identità sta prendendo? Piano piano sta prendendo l'identità che già gli avevamo dato dall'inizio, insomma. All'inizio avevamo forse un po' più di economie, quindi riusciamo anche a sviluppare maggiore offerta culturale come installazioni. All'inizio avevamo anche 28-29 installazioni, adesso appunto arriviamo a 11-12, ma solo per una questione economica. Ci siamo un po' chiusi, prima il percorso era molto più ampio, adesso invece lo teniamo un po' più compatto, anche se comunque si tratta sempre di 1,5 km di passeggiata, dal punto estremo di un'installazione all'altra, però ovviamente più fruibile per una questione proprio sia di tempo, perché poi ogni installazione diciamo richiede un minimo di tempo per approfittarne, per vederla, poi può essere un percorso che si chiude in un paio d'ore, insomma, se uno lo vuole fruire nel modo giusto. Però sì, un'oretta e mezza di tempo si vuole per citarlo bene tutto. Quindi sì, ci siamo un po' chiusi, ci siamo insediati un po' di più su Torpignattara e Maranella, perché pensiamo che sono degli spazi urbani che hanno ancora più necessità, sicuramente del Pigneto, di un'apertura verso l'esterno, verso la cittadinanza romana, e quindi anche per far conoscere questi spazi sotto appunto un altro punto di vista, con questo museo a cielo aperto che ogni anno riproponiamo per tutti i cittadini romani. Nel complesso quanti artisti e artiste e quanti eventi? Per questa edizione alla fine sono 12 artisti, gli eventi abbiamo appunto Carlo Infante che con Leitmotiv Performing Media Storytelling fa il suo percorso di Urban Experience e poi il workshop di videomapping. Organizziamo anche due workshop all'interno del plesso della scuola Pisacane, uno per le scuola primaria, quindi elementari, e un workshop invece per una terza media. Quello è un po' un appuntamento fisso per noi all'interno della scuola, riuscire a proporre anche delle attività che possono incuriosire i giovanissimi, no, in questo nuovo mondo della luce e della light art nel caso specifico. Ci dai tutti i riferimenti web per le info? Ovviamente trovate tutte le informazioni sul sito www.rgblightfest.com, lì c'è il programma, c'è pure una mappa dove ci sono appunto tutti i punti, dove ci sono le installazioni, con una piccola descrizione, una foto, in modo che nessuno li possa perdere. Poi ovviamente ci avremo un info point a Piazza Bullicante 2, dove oltretutto c'è anche l'installazione di Panzetti, Anamorfosi 02B, e potremo dare informazioni anche a tutti i cittadini che ci vengono a trovare, al pubblico. Poi ovviamente i social, quindi su Facebook trovate l'evento, sempre di Roma Global Brightness, e anche sulla pagina Instagram trovate tutte le informazioni. Settima edizione di Roma Global Brightness dal titolo Nascita a Tor Pignattara e Pigneto dal 16 al 18 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Diego Labonia. A presto! Grazie a tutti, vi aspettiamo dal 16 al 18. Un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Grazie Federico. Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana, per il teatro e gli altri eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, ci andiamo un po' a scandagliare la settimana teatrale. E dunque, per prima cosa andiamo al Teatro Tor Bella Monaca, perché questa settimana andremo a vedere il 14 e 15 dicembre questo atto unico di Gabriella Corini e Roberto Zorzut, Ceneri alle ceneri, il testo di un premio Nobel che era Harold Pinter, una coppia di mezza età nell'intimità della propria casa, un passato misterioso riemerge e chissà cosa porterà. Quindi Tor Bella Monaca 14-15 dicembre, ma sempre allo stesso teatro, 15-18 dicembre, quindi per un po' di giorni andremo a vedere questa selezione naturale, Boom Boom Boom, una regia di Alessandro Maggi con alcuni attori, mi vanno in tre personaggi, Eric, Max e Piero. Eric è un cantante di successo, Max e Piero insomma cercano di organizzare una intervista che sarà soltanto un pretesto però a questo cantante di successo, e c'è però sotto un progetto perverso, hanno delle motivazioni decisamente più torbide. I due finti giornalisti. Quindi selezione naturale, Boom Boom Boom al Tor Bella Monaca, 15-18 dicembre. Stesso teatro in cui sabato 17 andare a vedere questo spettacolo per bambini dai 6 anni, organizzato da Nobu Teatro, quindi Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio, Fabio Versace, ispirato a Nightmare Before Christmas di Tim Burton, quindi ispirato ai bambini, ma insomma che i bambini siano un po' attenti a questo Natale un po' speciale, insomma, come i Natali di Tim Burton possono essere. Allora, invece poi, Teatro Ambra Iominelli, perché torna Sabina Guzzanti con Giorgio Tirabassi nel testo Le Verdi Colline dell'Africa, tributo, insulti al pubblico di Peter Handke, sarà dal 15 al 18 dicembre al Teatro Ambra Iominelli. Si tratta di un lavoro che appunto ha una sorpresa all'interno del testo, quindi non si può rivelare molto, ma insomma la satira e la grande ironia graffiante di Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi sicuramente non resterà fuori da questo spettacolo. Quindi 15-18 dicembre per Le Verdi Colline dell'Africa, Teatro Ambra Iominelli. Invece Teatro Argo per due appuntamenti. Il primo è un appuntamento in qualche modo ricorrente che stanno in tanti teatri in tutta Italia, insomma, questo testo dell'autore iraniano Nassim Soleimanpour, un esperimento sociale in forma di spettacolo. C'è un attore, un'attrice coinvolta senza regia, senza prove, non conosce il testo, apre una busta sigillata, dentro c'è il testo. Questa volta c'è la Mimosa Campironi a misurarsi con questo lavoro, appunto molto sperimentale, quindi da lì dovrà interpretare il testo di fronte a un pubblico convenuto per l'occasione. Alle 20.30 all'Argo Studio del 15 dicembre, ma stesso teatro dove andremo a vedere anche un altro lavoro, ed è un lavoro che torna, 16-18 dicembre per lo spettacolo in realtà virtuale, ideato da Elio Germano, con la partecipazione di Pippo Di Marca e Isabella Ragonese, la pièce appunto in VR attraverso visore e cuffie, Così è o mi pare, dedicato appunto a Luigi Pirandello, una sorta di riscrittura di Così è se mi pare, dello stesso Pirandello, un cast molto vario, vasto, diciamo, per un appuntamento particolare, però appunto in realtà virtuale, nessuno presente realmente sulla scena. Per quanto riguarda invece il Teatro Basilica, questa sarà la settimana per vedere in doppia replica, 13-14 dicembre, quindi oggi e domani, questa regia di Umberto Andolfi di Il Loco Teatro, il titolo è Catch Me, con Maria Colucci, Antonio De Guglielmo, Maria Vittoria Argenti, insomma degli attori che abbiamo conosciuto, e si tratta di un lavoro sul sogno, sulla vita, nato dal ritrovamento di 15 audiocassette registrate da un uomo di cui si conosce soltanto il nome, Ennio, e questo insomma i 15 nastri, una sorta di lavoro, ecco, contemporaneo, che mi fa piacere è nato anche in collaborazione con Spin Time Labs, che è appunto questo luogo, questo uno dei pochi spazi sociali di maschi a Roma, e che insomma tanto ha combattuto in questi anni per restare, e al Teatro Basilica 13-14 di dicembre per questo lavoro Catch Me, appunto. Poi ancora per segnalare in giallo, il Natale, del 15 dicembre fino al 31, a Teatro Spazio 18B, scena con delitto di Jacopo Bezzi, Massimo Roberto Beato, si tratta appunto di una scena con delitto, sono le prove della messa in scena di Cinema di Bergerac di Lo Stand, e un'anziana attrice della compagna viene trovata assassinata in casa sua. Siamo a Venezia nel 1934, ne segue un'indagine e chissà chi sarà stato, lo andremo a scoprire allo spazio 18B. Andremo invece alla Fortezza Est 15, 16 e 17 dicembre per questo Carta con Bernardo Casertano, che torna a Roma con questo suo lavoro verso l'abisso della paternità, verso la visione di quell'enorme esperienza che tanto può affascinare quanto spaventare, quindi dedicato appunto alla paternità e al lavoro di Bernardo Casertano, Carta, dal 15 al 17 dicembre a Fortezza Est. Invece Stefano Benni è sul testo Signorina Papillone, che al Teatro dello Spazio andrà dal 15 al 18 dicembre con regia di Piero Di Blasio, una critica dissacrante, ironica della società contemporanea, con quattro personaggi molto diversi tra di loro che appunto si alterneranno sul palco con appunto quella ironia particolarmente profonda, graffiante di Stefano Benni. Quindi per appunto il 15-18 dicembre Teatro dello Spazio, la Signorina Papillon. Ancora qualcosa c'è da segnalare, Teatro Tor di Nona, 14-18 dicembre, Buroa di Antonio Amoruso, regia di Luca Milesi, si tratta di un vulcanologo di nome Jan Pavlik e un progetto di evacuazione delle città di Parnos con anni di anticipo sulla prossima eruzione del Buroa, questo vulcano appunto, e così andando, ecco, a evidenziare la depravazione della classe politica locale, che è incline più alla speculazione che alla vigilanza nei confronti dei propri abitanti. 14-18 dicembre, Teatro Tor di Nona per Vuroa, il nome appunto di questo vulcano. Poi abbiamo parlato, ma comunque, il Teatro delle Ariette al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 13-17 dicembre, con due appuntamenti. Ci sarà E riapparvero gli animali, che è uno spettacolo con scena, ingresso è libero fino a esaurimento posti, il testo è quello omonimo di Catherine Zambon, ed è la storia di una donna di 70 anni che, dopo aver attraversato l'epoca di grandi contagi, durante il quale erano stati eliminati tutti gli animali colpevoli di essere portatori di malattie, affronta poi in un mondo nuovo, moderno e crudele. Questo appunto sarà con attorno un meno di tutto rispetto, di rispetto, rostelli nella piatta, tagliatelle, pesto e noci, pesto di noci, mandorle e rosmarino, insomma, tutto nella preparazione del Teatro delle Ariette, che poi, sempre con Paolo Berselli, Stefano Pasquini, presenterà infine anche il suo Muri, però sarà in scena questo il 16 e 17 dicembre, che affonda le radici nel secolo scorso, segue una storia che comincia negli anni 50 e termina con la caduta del muro di Berlino autunno 89. E quindi un'esperienza di vita che poi in qualche modo si condensa in un'esperienza più ampia, anche questo comunque accompagnato dalla preparazione in scena della cena per tutti coloro che andranno a vedere lo spettacolo. Quindi al Teatro Quarticciolo contemporaneamente, e poi una data sarà al 17 alla Palestra Popolare del Quarticciolo di Via Trani, per appunto questo ritorno del Teatro delle Ariette a Roma. Qualcos'altro ancora da dire? Certamente che ce lo abbiamo, perché intanto al Vascello andiamo a vedere il circo, con il circo Il Grito, che ci porta in una strana storia. Nel 77 la NASA, lanciando la sonda spaziale Voyager, caricò a bordo un disco d'oro per grammofono, concepito per qualunque forma di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro in grado di ritrovarlo. E tra le varie tracce c'erano tre brani di Bach, e dopo 250 anni di assenza dalle scene, Bach ritorna dopo un viaggio interstellare sulla Terra, e saranno acrobazie, e sarà clownery, sarà musica sul palco del Teatro Vascello, 15-18 dicembre. Al Teatro Quirino andiamo a vedere uno spettacolo di tutto rispetto, perché andremo a vedere il testo con la regia di Rimas Tuminas, che porta sul palco del Quirino uno dei drammi più significativi di Herr Kitchen, una commedia sociale, un dramma borghese, meglio conosciuto come tale, ovvero sia Spettri, e la verità è la cosa più difficile da rivelare. Questa è la citazione. Ciò che avviene sulla scena, un passaggio tra presente, futuro e passato, in cui i personaggi reali e i fantasmi si fondono come in un sogno. E 13-18 dicembre per questo Spettri, con Andrea Gionasson e con gli attori, con Leonardo Panizzo, Gianluca Merolli, insomma la regia poi è di appunto un maestro europeo come Rimas Tuminas. E mi fa piacere appunto segnalarlo, l'altra faccia di Casa di Bambola, questo Spettri, con l'adattamento fatto dal nostro drammaturgo Fausto Paravidino, insomma qui in veste di adattatore del testo. 13-18 dicembre per Spettri al Teatro Quirino. Invece per la rassegna Puro Teatro andremo a vedere questo mercoledì al Teatro Centrale Preneste alle ore 17, attenzione, quindi 14 dicembre, ore 17, Voce del Verbo Alveare, spettacolo di Mary Bracalente per Teatro Nebis. Le api sono un animale di tipo comunitario, una creatura che svolge un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema. Ecco, cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad estinguersi? L'evento è gratuito e sarà appunto al Teatro Centrale Preneste alle ore 17 del 14 di dicembre. Anche per i più piccoli qua andiamo a teatro, perché domenica alle ore 17 andiamo a vedere Il Tenace Soldatino di Piombo, un film da palcoscenico, dalla fiaba di Andersen, e Fabrizio Pallaro, Valerio Malorni e Francesco Picciotti talvolta, al posto di Malorni, chissà in questa occasione quale sarà. L'attore per questo spettacolo tu pubblichi dai 4 anni, insomma la storia è quella che conosciamo, la celebre fiaba è reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita, combattono, danzano, parlano tra di loro. E andremo quindi al Teatro Quarticciolo alle ore 17 del 18 dicembre per questo Tenace Soldatino di Piombo. Questo fine settimana anche al Teatro delle Carrozzerie Notte per 16-18 dicembre Maragoni che Tarappa, Solo quando lavoro sono felice. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita o la nostra stessa vita? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Queste le tante domande che Lorenzo Maragoni e Nicolò Fettarappa porteranno sul palco delle Carrozzerie Notte dal 16 al 18 dicembre. Ultimo appuntamento di cui parleremo è in realtà il più diffuso, cioè il Festival Teatri di Vetro, che vede la sua settimana più intensa e questa sera porterà l'amica geniale a fumetti di Fanny Alexander, appunto, con l'opera di Elena Ferrante sul palco del... sul palco del Teatro India, tratto dalla graphic novel di Mara Cerri e Chiara Lagani, appunto sull'amica geniale di Elena Ferrante. Alle ore 20, Teatro India, seguirà poi il diario performativo di Alessandra Cristiani, insomma un sacco di appuntamenti al Teatro India questa settimana, molta danza, sicuramente ci saranno molti appuntamenti di danza e performance. Segnalo anche questo Never Young Game Over di Bianco Fango il 14 dicembre al Teatro India alle ore 20, il palcoscenico di un teatro, ma anche una piazza nel centro, una periferia di una città qualunque, è la piazza virtuale di internet, la chat sul telefonino. Questo insomma è la scheda che si apre per il Never Young Game Over di Bianco Fango. Seguiranno, sicuramente ci sarà uno spettacolo che vorrei vedere, la performance di Teatrino Giullare, Diario dei Giorni Felici al Teatro India, sempre il 15 di dicembre. Poi Carlo Massari, CC Company, con belli due lavori, Metamorphosis Larva e Metamorphosis Blatta, che appunto si susseguiranno il 14 e 15 di dicembre. Qualcos'altro ancora da segnalare, sicuramente ritorno a Roma di Paola Bianchi, molta danza vedo c'è anche la trilogia, si compone anche di Metamorphosis Sapiens di Carlo Massari, insomma molti gli appuntamenti, e quindi invito ad andare a vedere il sito teatridivetro.it per il programma completo. Io segnalo anche l'arrivo a Roma, ritorno a Roma di Teatro Acropolis con Apocatastasi e domenica alle ore 20, sempre al Teatro Ilio, Linguaggio del Vito, e che nega il principio di Linguaggio del Mito, nega il principio di identità, l'immagine della nascita e della rinascita, la natura oscura di un processo. Tutto questo è Apocatastasi, e direi che noi possiamo vederci al Teatro India per questa settimana, perché insomma gli appuntamenti sono tanti, molto diffuso il programma, e quindi ci incontreremo sicuramente lì. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ragazza in Erba, da un'idea di Alessia Bellotto, scritto da Loris Di Pasquale e Alessia Bellotto, con Alessia Bellotto, regia Loris Di Pasquale, mixaggio effetti sonori Matteo Di Simone.